C'è qualcosa di irrimediabilmente crudele, di troppo malinconico nello scoprire che nelle facce, nelle espressioni, addirittura nella posizione del corpo della persona con cui stavamo, si potessero leggere con tanta facilità dei messaggi che non volevamo leggere. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È il 3 di marzo. Sono le 16:07 minuti. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Nella foto ho 3 anni. Indosso una canottiera che è più larga del dovuto. Ho i capelli spettinati e sudati qui sulla fronte. Mi trovo in un campeggio a Roseto degli Abruzzi. Dietro di me c'è la Renault 5 carta da zucchero dei miei genitori, su cui io e mia sorella viaggiavamo sdraiati su un materasso. Praticamente mio padre abbassava i sedili posteriori e noi ci stavamo come in un matrimoniale king size. Viaggiavamo di notte, perché l'aria condizionata cos'è che era? La targa è di quelle che oggi hanno solo le auto storiche, NO324191. Io sono concentrato, sto osservando un animale davanti a me. È un gatto siamese, sembra un cucciolo. Ha un collare blu ed è impaurito. E secondo me ha ragione, perché dalla mia espressione sembra che io sia pronto a fargli qualcosa che non gli piacerà. Le mani che tengono il gatto sono quelle di mia madre. Lo tiene sollevato, un po' come per porgermelo, però come a dire anche fai piano, che è un animaletto. Io non sembro avere paura, però probabilmente non ho ancora consapevolezza del pericolo. E quello che succede dopo io non me lo ricordo. Forse lui mi ha graffiato, forse non l'ho manco toccato. Quello che so è che all'epoca mia mamma temeva che le gambe non mi sarebbero mai più cresciute. In famiglia dicevano che io assomigliavo a Renato Pozzetto. Quella foto lì ha più di 30 anni. Se volete vederla la trovate come foto del mio profilo su Matteo Caccia, io sono qui, su Facebook. Ecco perché mi piacciono le foto. Perché raccontano una storia. Raccontano una storia e lasciano immaginare quello che è successo prima e quello che succederà un attimo dopo. Mi piacciono soprattutto però le vecchie foto, quelle che aprono degli squarci sul passato, quelle che raccontano più di un foglio di diario alla fine. Perché l'espressione degli occhi che si ha in una foto, o la postura del corpo, o la luce di quel giorno lì, sono difficili da raccontare. Meglio di una fotografia, meglio di un'immagine che arriva direttamente da quell'epoca là. Ecco perché l'ho già chiesto ieri, ma lo rifaccio di nuovo anche oggi. Se avete trovato recentemente una vecchia foto, se magari siete in casa in questo momento, se avete voglia e avete modo di cercarla, magari proprio adesso, alle 16:10 minuti, in questo momento qui, se soprattutto avete voglia di raccontarmi la storia di quella foto, io sono qui. Il numero è sempre quello, è 80024 0024 oppure 349-238-6666 per mandarmi dei messaggi. Perché? Perché qualche giorno fa mi è successa questa cosa, mi è successa di ritrovare delle vecchie foto. È vero che è un mio pallino quello delle foto, e l'avrete capito perché ogni giorno ne racconto una che mi mandate voi però, quindi sono foto vostre. E per lo più spesso cerco di indovinare, perché non leggo la didascalia che Viola registra, fatta dall'ascoltatore che ha mandato la foto, e quindi cerco di capire... Boh, dov'è il posto, l'età, il luogo, che cosa sta accadendo dalle foto. Il più delle volte non ci becco. Questa volta però è successo a me. Mi è successo a casa. Ho trovato un hard disk che avevo a casa a Romentino, quindi che non avevo venduto lo scorso anno nel programma. Sapete come succede con un hard disk? No? È come quando si apre un cassetto, o anzi direi una cassettiera piena di cassetti. E come al solito, un po' come succede su Corriere.it, la prima cosa che si vanno a vedere sono le gallerie fotografiche. Ecco, la prima roba che ho fatto quando ho aperto quell'hard disk è stata trovare la cartella con scritto foto, e in mezzo a queste foto ce n'erano di particolari. Adesso vi racconterò esattamente che tipo di foto erano. Insomma, quelle foto lì ciascuna raccontava una storia, e messe insieme raccontavano praticamente un romanzo. Mi sono già arrivate delle foto vostre, delle foto antiche, chiamiamole così, delle foto vecchie anche semplicemente, di qualche anno fa. Me le avete inviate a io sono qui @radio24.it o sul profilo Facebook Matteo Caccia io sono qui. E tra tutte ce ne sono un paio che sono belle perché sono una storia intera. Come quella che mi ha mandato Maddi. Nella foto c'è una donna giovane che è a fianco a degli scalini in pietra che scendono o salgono, non si capisce dove. Lei è in costume da bagno, ha un costume da donna, ha su delle ciabatte, Forse sono delle spadriglias, però calzate come se fossero delle ciabatte. È seduta su di un asciugamano, su uno scoglio, e di fianco a sé ha una tavola da surf, o da windsurf, però insomma una tavola da surf. E quello che mi ha scritto Maddy, che è il racconto di questa foto, è: questa foto non è vecchissima, ha 23 anni. Per me è la foto per eccellenza della mia famiglia. C'è mia mamma, ed è evidente, ci sono io nel pancione, e c'è mio papà, che oltre ad essere dietro l'obiettivo a scattare la foto, è là nella sua tavola da windsurf con l'arcobaleno dei Pink Floyd. Questa foto è appesa in camera mia. Ecco, sono esattamente queste le foto che preferisco, quelle che raccontano una storia e quelle a cui si può aggiungere una storia. Se avete voglia, se state in casa, se state in ufficio, se avete un file da aprire, se avete un cassetto fisico da aprire e avete voglia di raccontarmi la foto che tenete in mano, la foto che state riguardando in questo momento preciso, 800240024 349 238 6666. Me ne hanno mandate anche altre di foto, che però vi racconto dopo. Ce ne sono un paio che sono molto divertenti. Arriviamo al dunque, però. Arriviamo a capire per quale motivo oggi vi racconto di vecchie foto. E quindi, mentre aggiustavo la tensione delle corde, ho visto venire nella mia direzione una ragazza senza ombrello, con addosso un cappotto rosso. La prima cosa che ho pensato è stata: ecco, adesso mi prenderà per un cretino. Mi prenderà per una specie di bohemien lombardo che vuole fare colpo suonando sotto la pioggia. Sì, che lo so, mi sarei pure potuto salvare spiegandole che in realtà io, quando ero uscito di casa, avrei voluto suonare sotto la neve che ancora stava scendendo e non sotto la pioggia che è arrivata quando sono arrivato al parco. Però ho pensato che la spiegazione avrebbe peggiorato le cose, quindi era meglio stare zitto. Forse la soluzione era smettere di suonare del tutto. Però la scena sarebbe stata ancora più patetica. Cioè, un cretino in un parco sotto la pioggia con una chitarra in mano che manco la suona. Ecco, mentre pensavo a tutte le cose che lei avrebbe potuto pensare, ho sentito qualcosa cadere nella fanghiglia vicino ai miei piedi. Ho guardato per terra e ho visto una moneta da 50 centesimi. Ho alzato gli occhi, la ragazza col cappotto rosso si stava allontanando dopo essersi rinfilata in tasca la mano con cui mi aveva lanciato la sua elemosina. Ho raccolto i 50 centesimi e, ringraziandola, le ho detto che non li volevo, che non stavo suonando per i soldi, ma semplicemente perché mi andava di farlo. Lei però deve avere frainteso, forse ha capito male, perché ha borbottato qualcosa. Io le ho chiesto di ripetere e lei mi ha detto: «Oh, siete tutti uguali voi altri, chiedete i soldi e poi non vi va bene quello che vi danno». Ve l'ho già raccontata l'anno scorso questa storia, lo so. Questa è stata la maniera in cui avevo conosciuto la mia ex, un giorno di qualche anno fa. Ero uno sfaccendato che andava al parco a suonare uno strumento che non sapevo suonare, la chitarra. Roba che io e le storie tese su una cosa così banale non pensano manco di scriverci mezza strofa. Ero al parco sotto la pioggia e lei ha pensato che io chiedessi l'elemosina. Non mi ricordo più dove ho sentito una frase che suona più o meno così: nell'inizio c'è sempre la fine. Cioè, che è come se sapendo leggere l'inizio di una cosa ci sia già una traccia di come tutto andrà a finire. A ripensarci adesso mi sembra che tutto fosse scritto lì, dentro a quella monetina lanciata con sprezzo del suo cappotto rosso. È vero che c'è un modo di agire che parla, racconta più di discorsi o di lunghi monologhi, però spesso le cose che sentiamo dire e quelle che vediamo fare, secondo me, andrebbero shakerate insieme. Cioè, non è che una annulli l'altra, semplicemente una completa l'altra e quindi ti dà meglio il quadro della situazione. È un po' come quando diciamo ad una donna che non l'amiamo, però ci andiamo a letto. Oppure quando diciamo di essere credenti, ma non praticanti. Come quando sosteniamo di lavorare per un gruppo e invece lavoriamo solo per noi. Credo che quello che ci identifichi non sia solo quello che diciamo o quello che facciamo, credo che sia esattamente la parte che sta in mezzo. La linea mediana del segmento indica molto meglio di tutto il resto qual è la nostra direzione. Ecco, io in Giulia quella linea non l'avevo vista. Ieri sono tornato a casa. Sono tornato a casa e ho aperto una cartella che non aprivo da un po' di tempo. Era in un hard disk che tenevo in un cassetto a lomentino. E c'era nascosta sotto uno strato di nomi, tipo foto 2008, foto mie, foto Giulia, un'ultima piccola cartella. La cartella si chiamava Istantanee. Non l'aprivo più da anni. E ho pensato che ieri era arrivato il momento, cioè che ieri fossi pronto per guardare di nuovo quelle foto. Allora, la questione è questa. Quando ho conosciuto Giulia, noi abbiamo iniziato un gioco. Il gioco era quello di scattarci una foto ogni mese, lo stesso giorno del mese, dall'inizio della nostra storia, fino a quando fosse durata. Sì, lo so, è una roba orribile da innamorati, lo so, ma l'avevamo fatto. Nella cartella ci sono una ventina di foto, perché ad un certo punto evidentemente abbiamo smesso di farle, chissà come mai. Quindi ne ho aperta qualcuno, così, in ordine cronologico. 10 giugno 2006, ore 16:34. Io ho le labbra arricciate come in un sorriso, in una specie di smorfia. Ho 31 anni, piego la testa verso la sua spalla destra e guardo dritto in camera. Sono seduto, accovacciato per terra, appoggiato ad un muro. Piedi nudi sul parquet di ebano quasi nero. Ho il volto scuro di una bronzatura interrotta solo sul naso dalla stanghetta degli occhiali da sole. Giulia invece ha le labbra socchiuse, è sdraiata per terra. Il braccio sinistro teso verso la macchina a sorreggerla. Poggia la sua testa sulle mie ginocchia. I capelli sono legati in una coda. È più giovane di me. Gli occhi luccicano verso l'obiettivo. Siamo felici. 10 settembre 2006, ore 15:35. Giulia in bikini, rannicchiata. Con le braccia strette si tiene le gambe lunghe, abbronzate, vicino al corpo. Un viso da bimba le spunta dietro le sue ginocchia. Le ginocchia mostrano due o tre vecchie cicatrici chirurgiche. Io sono in costume da bagno e maglietta, inginocchiata al suo fianco. Con la mano sinistra tengo la macchina fotografica e con la destra porto alle mie labbra la testa di Chiara. Non siamo in casa questa volta. Siamo all'ombra di un telo bianco nel pozzetto di una grossa barca a vela. Il mare dietro di noi è trasparente. 10 maggio 2007, ore 16:12. Giulia non guarda l'obiettivo. È seduta su una poltrona di velluto rossa. È impegnata ad accarezzare un cucciolo di Labrador. Lui le si è accoccolato sulle gambe. I capelli le scendono davanti al viso, lo nascondono pressoché tutto. Il suo corpo è avvolto in una tuta di felpa, grigia e verde. Io invece sono seduto sul braccio destro. Con entrambe le braccia stringo le spalle di Giulia. Cerco di sorridere alla macchina fotografica. Questa volta è lontana. Autoscatto questa volta. 10 dicembre 2007, ore 12:22. La luce è intensa, io e Giulia siamo abbracciati, appoggiati al parapetto di una balconata, con il vento che ci spetta nei capelli. Alle spalle si vede lo skyline di Manhattan. Attorno a noi si intravedono turisti intenti ognuno ad immortalare il proprio panorama newyorkese. Io guardo Giulia, lei guarda l'obiettivo. 10 giugno 2008, ore 16:59. Giulia è distesa sul divano e coperta da un leggero plaid di cotone. Gli occhi sono chiusi. Dorme. Io sono seduto a terra ai piedi del letto e guardo l'obiettivo. Con la mano sinistra reggo la macchina, mentre dalla destra, chiusa vicino alla bocca, spunta solo l'indice ed è teso davanti alle labbra, nell'atto di pronunciare un shh. 10 guardo queste foto, mi arriva un messaggio sul cellulare. È un messaggio di Giulia. Mi chiede se ho voglia di vederla per prenderci un caffè e fare quattro chiacchiere. Ecco, io lì ho appoggiato il cellulare e ho spento il computer. C'è qualcosa di irrimediabilmente crudele, di troppo malinconico nello scoprire che nelle facce oppure nelle espressioni, addirittura nella posizione del corpo della persona con cui stavamo, si potessero leggere con tanta facilità dei messaggi che noi semplicemente non volevamo leggere. Dance me to beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. 349-238-6666. Appena trovato la foto matrimonio dei miei nonni, non l'avevo mai vista. E vabbè, raccontacela, perché altrimenti, così, anche se le foto di matrimonio dei nonni un pochettino si assomigliano tutte. Com'era targata l'auto? Cioè, di dove sei? N.O., sono della provincia di Novara. Mi è capitata una vecchia foto di un autovelox in moto. Purtroppo io ero lì. Mi ricordo, mi sono arrivate diverse foto dell'autovelox invece in macchina, e la più brutta era la mia macchina, tutta inclinata davanti perché stavo inchiodando nella speranza di fermarmi. Si vede tutta la coppa dell'olio sotto, talmente l'era impuntata in avanti. Daniele scrive: ta crede che la t'ha molat, che credo voglia dire ci credo che t'ha mollato. Ciao Matteo, volevo chiederti se ti ricordi il titolo del libro di quella ragazza che ha chiamato dicendo che dopo che lo ha letto questo libro si è avverata. Ciao Simone. Destino... The Secret. No, ancora su The Secret siamo. No. Guarda, come se non l'avessi detto. E tra le altre foto, appunto, oggi sul profilo Facebook mi è arrivata questa foto qua. È la foto di un bambino, in sostanza, proprio per dirvela breve, è la foto di un bambino che c'ha in bocca un sigaro. Pronto Daniele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Senti, io sto benone, grazie. Senti, spiegami esattamente la storia di questa foto. Nel senso che la prima cosa che si evince è che c'è un bambino, che immagino sia tu, con in bocca un sigaro. Raccontaci il prima, il durante e il dopo. Ma devo essere sincero, non è che mi ricordo benissimo, insomma, perché ero veramente piccolo. È una foto che comunque mi accompagna da quando sono nato, praticamente. E ti posso dire che però il periodo, io essendo friulano, era esattamente un anno dopo il terremoto del 76. Quindi sicuramente era un periodo così, magari, non so, lo butto così, tipo una conseguenza, effetto collaterale di quello del che terremoto. Senti, ma quanti anni avevi in questa foto? Avevo 3 o 4 anni, credo. Ma chi è che ti ha messo in bocca però un sigaro? Ma credo, onestamente non lo so, ma sicuramente, non posso chiedere conferma a mia madre, ma sicuramente penso a mio carissimo zio, che era molto burlone e si burlava spesso di me, ma nella maniera, insomma, positiva. E quindi mi hanno fatto questa foto, che poi c'è stata addirittura una seconda foto tipo 10 anni dopo in situazioni diverse, ma insomma erano questi giochi così, che magari innocui, ma che in realtà, vedendo un bambino di 4 anni con un sigaro in bocca, magari, insomma, non passano così. Senti Daniele, corretti. Cosa fai adesso nella vita? Ma sono responsabile commerciale in un'azienda, in una PMI. Scusami, in una PMI, una medio-piccola azienda. Ah, insomma. Piccola media, esatto, impresa, esatto, perfetto, esatto. Perdona, nel senso che Barisonia l'avrebbe tradotto in un attimo, io però ancora, diciamo, resto al palo, sì, in teoria giustamente anche tu mi fai notare cose giuste. Senti, poi ti saluto, tornando a questa foto e poi saltando ad oggi, sì. Cosa c'è di diverso da quel bambino lì al Daniele di oggi, che è responsabile commerciale di una PMI? Il sigaro, magari, non fumi il sigaro? No, sono da 70 giorni che non fumo. Quindi è la mia piccola promessa che mi sono fatto, e spero di venirne fuori. Comunque sicuramente la differenza è fondamentalmente che sia un po' più cupi, un po' più pensierosi. Mi piacerebbe più essere spensierato, allegro e soprattutto discolo come ero da piccolo. Quindi ne ho combinate veramente tante. In sostanza un po' peggio. Un po' peggio, sì, ma penso che fondo in fondo vorremmo tutti essere sempre bambini, no? Almeno un'occasione da qua in avanti, sempre averne una per essere sempre bambini. Forse dipende, forse no, forse in alcuni casi, forse sì, in altri no. Daniele, ti ringrazio moltissimo e buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Adesso la borsa e poi ancora vecchie foto qui a Io Sono Qui. Sono tutte uguali. È vero, 4.000 fotografie dello stesso posto. L'angolo tra la terza e la settima, alle 8 di mattina. 4.000 giorni con tutti i tipi di clima possibili. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. E nella foto di oggi non c'è moltissimo da dire, se non che si vedono delle piastrelle di cotto, direi, ma finto cotto, è troppo chiaro per essere cotto vero, con le fughe nere in mezzo come se fossero una croce, e due pantofole con del pelo dentro e scamosciate fuori. Isabella McKenna, 18 anni, San Maurizio Canavese. Queste pantofole erano le più diffuse tra i ragazzi della high school in North Dakota, e quando le ho comprate mi sono venute in mente loro. Ma adesso io sono qui. 800 24 0024 349 238 6666. Allora andiamo con ordine. Cominciano già ad arrivare degli sms terrorizzati che mi chiedono: ma cosa fai? La incontri? Non lo so. Non lo so, vediamo, magari poi non è che vi posso proprio raccontare tutto tutto. E poi invece sul profilo Facebook stanno caricando tantissime fotografie e molte sono belle perché appunto sono descritte. Giulia ad esempio, c'è una foto lui con in mano un pescione gigante, direi, e dice: ottobre 2003 al largo dello Yemen, quel giorno mi sono fermato sul reef di Angarosh, madre di tutti gli squali, e ho pensato bene di procacciarmi una cena diversa dalle altre. Sono passati 8 anni e per me, che ne ho 23, cominciano ad essere parecchi. Quindi non hai in mano un pesce, hai in mano uno squalo, che è piccolo ma è pur sempre uno squalo. Paolo ancora, Paolo ha caricato una foto in cui c'è lui con i capelli dritti in testa e due occhiali da sole, così detto: io sono qui con i numeri 55 e 38. Non lo so, magari ce li giochiamo all'otto. Maurizio, è una foto di famiglia, io con la maglietta a righe con mia sorella in spalla e i miei cugini, quando tutto sembrava ancora possibile. Oggi ho 43 anni e quindi la domanda che mi viene da farti, Maurizio, è: quindi oggi invece cos'è che ti sembra impossibile? 800240024. Andiamo subito da Daniela, dalla provincia di Cuneo, che ha scoperto, e credo ce l'abbia in mano, una foto di quando era in America a lavorare. Pronto Daniela? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, benissimo, grazie. Dove ti trovi? Allora, sono sotto la pioggia quasi neve a prendere mia figlia a scuola, ma questa mattina, mettendo a posto nel mio ufficio, ho trovato una vecchissima foto di più di 20 anni fa. Ma perché stavi mettendo a posto l'ufficio, Daniela? È una cosa che fai ciclicamente o una cosa che non fai mai? Quindi... No, lo faccio in maniera ciclica perché non lo faccio mai. Ah, ok. Quindi quando proprio non ce la fai più, lo metti a posto. No, esatto. E che foto è? Ma è una foto mia vicino a dei colleghi. Io facevo la semplice lavapiatti in un ristorante a Washington DC. Mm-hmm. Ed è veramente emblematica perché vuol proprio dire un'altra vita, un'altra persona. Quanti anni hai adesso, Daniela? Adesso sono 39. E che cosa fai nella vita? Ho una società mia e mi occupo di comunicazione. Hai una società tua a Cuneo che fa esattamente cosa? Di comunicazione, cioè che tipo di comunicazione? Web marketing, internet marketing, siti web, la cosa del momento. Ma sei da sola? Sì, sono da sola. Quindi c'hai l'ufficio a casa? O... Sì, avevo l'ufficio a casa e invece da qualche tempo ho finalmente deciso di avere una sede mia e di staccare con la casa bottega, perché altrimenti non si vive più. Ecco perché nelle scatole trovo ancora oggetti personali. Di 20 anni fa. Senti, e cosa ci facevi invece a Washington DC, oltre a lavare i piatti? Ero scappata di casa. Ah, perfetto. Sì, proprio semplice, lineare, ero scappata di casa. Sì, ero proprio scappata, avevo... Da poco ho superato i 18 anni e avevo litigato con i miei genitori e me ne sono andata e ho deciso di andarmene oltreoceano. Non è stato facile per loro, però per me è stata una bellissima esperienza. Quanto sei rimasta là? Sono fermata quasi un anno. Sono fermata quasi un anno ed è stato lì, fra l'altro, che ho scoperto cosa volevo fare nella vita, quindi devo dire che è andata bene. È stato molto importante. Daniela, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, grazie. È arrivato un messaggio che non capisco, cioè credo di capire. Un cavolo, tanto ci racconti anche di quando vai in bagno, quindi ci devi dire tutto tutto, sennò cambiamo e guardiamo Beautiful. Anche perché alla fine mi sa che tra Beautiful e io sono qui non ci cambia moltissimo. È arrivato una foto quest'oggi, è una foto di Enzo, è una foto in bianco e nero, in cui l'ho scelta perché è emblematica, proprio perché appunto, come dicevo prima, i matrimoni dei nonni o dei genitori nelle foto sembrano un pochettino tutti uguali. E devo dire la verità, io guardando questa foto che ho in mano e che mi ha spedito Enzo, vedo un pochettino anche mio papà e mia mamma. Pronto Enzo? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Senti, raccontami, innanzitutto tu ci sei in questa fotografia che potete vedere sul profilo Facebook. È una fotografia in bianco e nero in cui ci sono due sposi all'altare. Tu sei presente, allora, o ancora no? Io sono presente, sono fuori inquadratura, un po' più giù, sotto il pancione della sposa, e ho 3 mesi. Ah, ok, quindi ci sei, come? Sì, certo. Senti, come? Enzo, dov'era questa foto? Dove eravate? Quanti anni avevano i tuoi genitori? Scattata in una chiesa di Catania, nel 73. Sì. I miei genitori avevano... Mia madre aveva 23 anni, mio padre ne aveva 25. Ed è il momento del... del loro matrimonio. A questo punto ora mi viene istintivo chiederti com'è finita la storia. La storia è finita, è andata benissimo fino a quando mio padre se n'è andato da un momento all'altro, è venuto a mancare, però fino a quel momento è stata una storia splendida. Infatti in questa fotografia sono condensati tutti i giorni della loro storia fino praticamente agli ultimi, avevano gli stessi sorrisi, io ricordo. Enzo, ti ringrazio moltissimo, ti ringrazio soprattutto per averla caricata sul profilo, perché mi rendo conto che può sembrare una cosa assurda quella di raccontare delle foto alla radio, e invece la storia che hai raccontato tu è proprio tutta raccontata nella foto che hai caricato e che trovate sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Enzo, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Andiamo da Alberta da Verona, che ha chiamato e dice che è una foto molto vecchia trovata a casa di sua madre. Pronto Alberta? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Quando l'hai trovata questa foto? Ma l'ho trovata in casa di mia madre tanti anni fa, dopo che è mancata. Mm-hmm. E l'ho tenuta lì, però non ho mai saputo se fosse una fotografia di parenti o di amici. È una fotografia storica. Ma chi c'è raffigurato però? Sono personaggi particolari, sono bambini? Sì, è una famiglia. Dunque, la fotografia è tinta proprio quella seppia. Virato seppia. Sì. Sì. E c'è una giovane donna con un collo di pelliccia col cappotto. Sì. E sulla seggiola vicina c'è un bambino che avrà 4 anni. Vestito da piccolo, da figlio della lupa. Da figlio della lupa, quindi era chiaramente era periodo fascista. Periodo fascista, sì, proprio. Poi, con il suo cinturone bianco, la giacchina nera, i calzettoni, eccetera. Che differenza c'era tra i figli della lupa e i piccoli Balilla? Erano i più piccoli. I figli della lupa? Avrà 4 anni. E invece i piccoli Balilla quanti anni avevano? Dai 7 anni, 6-7 anni. E poi però tu dicevi che c'è anche uno che è vestito da avanguardista. Sì. Poi c'è vicino quell'altro che è Balilla, anche quello con i suoi calzettoni e i calzoncini corti, il cinturone con le giberne davanti, e poi c'è una fascia con un Alberta, nastro. Scusami, quanti anni hai tu? Io ne ho 79. Ne hai 79? Cosa hai fatto nella vita? Io nella vita ho fatto tante cose, tra cui anche tra lavorare, tra famiglia, figli, adesso nipoti. Alberta, ti ringrazio moltissimo per la tua telefonata, ti auguro una buona giornata. E poi perché c'è quell'altro che è avanguardista, che quello deve essere sopra i 13-14 anni. Ok, grazie mille, ciao Alberta, buona giornata. Ciao, grazie. Passiamo da una foto che ci è raccontata, una foto che potete vedere, anche questa che sto per raccontarvi la potete vedere sul profilo Facebook ed è di Alessandro Frau. Pronto Alessandro? Pronto, ciao Matteo. Ciao, grazie per essere intervenuto. La tua foto è particolare perché è chiaramente, diciamo, l'obiettivo della foto era uno e poi è diventato un altro, cioè tu, giusto? Sì. Siamo in riva al mare nelle tipiche foto da estate, quelle che tutti i padri scattano ai figli o alle madri, e per lo più spesso le madri non vogliono. Tua mamma sta uscendo dall'acqua come una Venere, con un bel costume intero, e tu sei in primo piano con una faccia tipo col sole negli occhi, oppure che cosa stai facendo papà, una roba del genere? No, è la faccia che faccio sempre quando c'ho il sole, praticamente è che mi colpisce gli occhi. E l'ho tenuta. Dove eravate Alessandro e quanti anni fa? Dovrebbe essere nel 90, eravamo a Itarutas, vicino Capras, in Sardegna. Senti, lo frequenti ancora? I tuoi ci sono ancora? Fate ancora queste vacanze? Ormai non più, ormai siamo separati, tendo ad andare più che altro in vacanze con i miei amici, i miei genitori comunque tornano ogni anno, ci ritornano in estate in Sardegna. Senti Alessandro, ti ringrazio moltissimo e soprattutto per aver caricato la foto. Okay. Buona giornata. Buona giornata, ciao. Ciao, grazie. Rimaniamo in Sardegna e andiamo a Carbogna. Pronto Dino? Pronto, sono io. Ma Carbogna Iglesias, scusami Dino, aspetta. Carbogna Iglesias è la provincia, giusto? Sì, provincia Carbogna Iglesias. Ma... è un paesino, Villa Peruccio. Villa, scusami? Villa Peruccio. Villa Peruccio. Quella zona della Sardegna? Dove c'è la più grande necropoli della Sardegna, necropoli fenicio, diciamo. Chiaro, chiaro. Senti, sì. Quella zona della Sardegna è la zona, è il Sulcis Iglesiente, giusto? Cioè è la zona delle miniere. Miniere, giusto? Sì. Mio padre è animatore, mio fratello è minatore, una famiglia è minatore. E tu nodi, no? Come? E tu non sei un minatore? No, no, io ho lavorato all'estero, poi dopo ho lavorato in una centrale per bollette. Senti, raccontami, abbiamo 30 secondi, raccontami la foto che hai trovato. Che allora, hai in lavoro, noi facevamo la colletta ogni mese per un ragazzino africano. E sì, io gli dicevo sempre a questi colleghi che avevo delle fotografie che erano molto più nere di quel bambino per cui mettevamo i soldi. E tutti ridevano, non ci credevano. Lo dicevo anche a casa questa storia, che mettevo soldi per uno che era più bianco di me alla fine. E alla fine c'era questa foto. Tre giorni fa, di questi del Kenya, questi bambini. Sì, sì, un bambino allora, africano. Allora io cosa ho fatto? 3 giorni fa al bar mi hanno dato una fotografia che del periodo di scuola del 62-63. Sì, sì. E tutti i miei amici sono compagni, una foto di scuola, di gita scolastica al fiume. E tu eri effettivamente, ed eri il più nero di tutti, Dino. No, te la manderò poi. Bravo, guarda, fai una cosa, devo chiudere. Mandami... Tutti gli altri sono bianchi, io sono nero, ma nero un negretto. Mandamela, io sono qui, @radio24.it. Ti devo salutare, Dino, grazie mille. Ciao, buona giornata. Grazie a lui, grazie a Viola Bottoni e a Paolino Corleoni. Abbiamo finito, perché domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?